Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera andiamo a Roma, dove è stato inaugurato il primo impianto di microcogenerazione in Italia, alimentato da una miscela di metano e idrogeno. Rifornirà gli impianti sportivi universitari a Viale Tor di Quinto, fornendo elettricità ai campi da gioco e riscaldamento alla piscina. Vale la pena di ricordare che la cogenerazione è una pratica ben nota, anche se non così diffusa come potrebbe e come dovrebbe. In pratica parliamo di bruciare un combustibile per produrre energia elettrica, utilizzando però il calore di scarto, che di solito va sprecato, per alimentare un sistema di riscaldamento. In questo modo è abbastanza evidente, si riesce a utilizzare molta più energia a parità di combustibile bruciato e quindi si ha un aumento di efficienza. Ma la novità del progetto romano, come abbiamo detto, non sta nella cogenerazione in sé, ma nella miscela combustibile, un mix di metano e idrogeno. Che benefici si attendono e a che scopo si è messa in piedi questa operazione? Lo chiediamo a Livio De Santoli, delegato per l'energia dell'Università della Sapienza. Buonasera, De Santoli. Buonasera, buonasera. Allora, De Santoli, parliamo di un impianto sperimentale, giusto? Come è composto? Dunque, questo è un impianto sperimentale che fa parte di un'attività di ricerca che si chiama Joint Lab di Sapienza Innovazione, che è una struttura in collegamento con le istituzioni pubbliche della Sapienza. Il finanziamento è stato un finanziamento regionale, ecco. È composto da un cogeneratore da 60 kW elettrici, naturalmente questi 60 kW elettrici, contemporaneamente a questi 60 kW elettrici avremo 120 kW termici. Ecco, questo cogeneratore è un motore normale, tra virgolette. È un motore normale a combustione interna, è alimentato a metano solitamente, quindi a gas metano. È un cogeneratore che ha dei buoni rendimenti, perché 60 kW elettrici e 120 kW termici a fronte di circa 200 kW di potenza introdotta. Naturalmente si chiama microcogenerazione, in realtà il limite della microcogenerazione sarebbero i 50 kW elettrici, qua stiamo su 60, comunque possono essere... Stiamo parlando di un motore non molto diverso a quello che c'è su tante automobili, un po' sportive. Navi, piccole imbarcazioni. D'accordo. Ecco, quindi c'è questo cogeneratore e dentro questo cogeneratore, la novità di questo impianto è che invece di mandare metano e basta, inviamo una miscela di metano con idrogeno. Idrogeno prodotto alla quota di un normal metro cubo ora, con energia elettrica derivata da un impianto fotovoltaico che abbiamo installato proprio nello stesso centro. 4 kW di potenza di picco sono necessari per far funzionare l'elettrolizzatore 8 ore al giorno, per poter additivare il metano fino a una percentuale nominale della miscela del 5%. Che è quella, diciamo, che adottate adesso. Stiamo adottando adesso. Dico questa perché col 5%, con un limite del 5%, sicuramente le cose funzionano. Questo idrogeno però voi lo producete, abbiamo detto, appunto col fotovoltaico. Di per sé questo non è un sistema molto efficiente, converrebbe utilizzare l'energia elettrica che produce l'impianto senza stare a fare questa doppia trasformazione, produrre idrogeno, poi con l'idrogeno riprodurre energia elettrica. In realtà facciamo soprattutto energia termica e, come ben sappiamo, la trasformazione dall'energia elettrica all'energia termica, ancorché gratuita come nel caso del fotovoltaico, non è che sia una cosa meravigliosa dal punto di vista termodinamico, però in questo caso particolare vorremmo tentare di dare una risposta iniziale, ovviamente interlocutoria, sulla famosa disputa dell'idrogeno come vettore energetico. Certo. Per una serie di problematiche che abbiamo messo sul tavolo della discussione nel momento in cui abbiamo iniziato proprio in queste settimane questa sperimentazione. Numero uno, è possibile utilizzare la tecnologia esistente con l'idrogeno? Quando parlo di tecnologia esistente voglio dire le macchine che esistono, certo, commercialmente, non macchine che devono essere modificate. Questo discorso può essere affrontato in un discorso più ampio che vogliamo fare alla Sapienza e che faremo alla Sapienza nei prossimi mesi, che riguarda non solo una macchina per la produzione di energia termica elettrica come il cogeneratore a motore a combustione interna, ma anche autoveicoli, visto che abbiamo una vettura, una Panda, che solitamente funziona a metano e che è stata modificata leggermente per poter accettare fino a un 30% di idrogeno. Ecco, insomma, il vostro obiettivo appunto è quello di verificare la compatibilità di una serie di tecnologie già ampiamente diffuse con appunto l'idrogeno. Non è vostro compito rispondere alla domanda come lo facciamo questo idrogeno, perché mi pare che poi insomma il problema di fondo rimanga, cioè in realtà... Sì, no, il problema rimane. In realtà è molto meglio farlo col fotovoltaico che ovviamente farlo con l'energia elettrica da rete tradizionale. Certo. Il problema che è sul tavolo e che richiederà nel prossimo futuro una risposta precisa, chiara, trasparente, è quello della risposta da dare alle rinnovabili sulla loro discontinuità. E come si sa, un modo per smussare queste discontinuità, per cercare di appiattire la curva che presenta dei grossi... Cioè, stiamo parlando del fatto che il fotovoltaico, come dire, ovviamente ha una produzione discontinua perché il sole è discontinuo, il vento anche quello è discontinuo, gran parte delle rinnovabili sono cosiddette non programmabili, cioè appunto non si può prevedere esattamente la produzione. Esattamente. Allora, per un ipotetico futuro nel quale queste rinnovabili prendono piede fino a una percentuale non trascurabile, no, del fabbisogno complessivo di una nazione, di un paese, di una città, occorre risolvere questo problema. Uno dei metodi, non il solo, ma uno dei metodi, potrebbe essere quello dell'utilizzo dell'idrogeno, prodotto da fotovoltaico, da energia rinnovabile, quando questa energia è tanta, e utilizzata quando, come fonte energetica quando questa energia non c'è. Occorre comunque chiedersi se la transizione verso l'idrogeno può essere una risposta al futuro energetico oppure no, indipendentemente poi dall'affetto che uno ha più o meno grande nei confronti di questo benedetto idrogeno. Grazie De Santoli. Grazie a voi. È tutto, a domani.